Italia in controluce. Buon pomeriggio, oggi è il 9 giugno, vi parla Daniele Biacchesi sulle frequenze di Radio 24. Domenica 12 e lunedì 13 giugno si voterà anche per il referendum sul legittimo impedimento, oltre che per acqua pubblica e nucleare. Il racconto di Raffaella Calandra. In principio fu il lodo Maccanico, ben presto ribattezzato Schifani all'epoca dei processi SME e lodo Mondadori contro Silvio Berlusconi. Poi, 7 anni dopo, fu la volta del lodo Alfano, quindi toccò la legge sul legittimo impedimento che ora, dopo l'ultima parziale bocciatura della Consulta, è sottoposta al voto popolare. Quarto quesito, scheda verde, si vota per abrogare, vale a dire cancellare, la legge del 7 aprile 2010, quella cioè sulla presenza in udienza del Presidente del Consiglio e dei Ministri. La Cassazione infatti ha ammesso il quesito anche dopo la pronuncia della Suprema Corte. La maggioranza punta alla mancanza del quorum e comunque al no, al contrario invece dell'opposizione. Deve quindi ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 138 della Costituzione. Noi il processo lo vogliamo fare con i tempi che la Presidenza del Consiglio ovviamente può seguire. Sollevata a Milano per prima dai giudici del processo Mediaset, la costituzionalità della norma sul legittimo impedimento è stata esaminata dalla Consulta che il 13 gennaio l'ha in parte bocciata, stabilendo che sia il giudice a valutare volta per volta la natura dell'impegno in uno spirito di leale collaborazione. La norma va cancellata del tutto alla richiesta dei promotori del sì come l'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. Io credo che in un paese normale, un Presidente del Consiglio normale, debba mettere al primo posto della sua agenda la definizione dei suoi procedimenti penali e quindi semmai spostare altri appuntamenti e non ricorrere strumentalmente sempre per sfuggire alla giustizia. Insomma, la legge sul legittimo impedimento, così com'è, ancora permette al Presidente del Consiglio di rinviare sine die la valutazione del giudice penale circa i suoi comportamenti asseritamente penalmente rilevanti. Il voto sul referendum è il naturale sbocco propositivo di una protesta di piazza a cui dobbiamo dare una risposta. Affianca all'iter del quesito sul legittimo impedimento a quello del nucleare l'avvocato Alessandro Pace, che l'ha sostenuto per i referendari. La ragione che ha spinto l'Italia dei Valori a proporre prima il referendum e poi a insistere è che questa legge, la legge 51 del 2010, ancorché emendata dalla Corte Costituzionale, determina comunque una situazione di privilegio dei governanti rispetto ai comuni cittadini. Prima di questa legge si applicava anche a Berlusconi, anche a tutti quanti, al Presidente della Repubblica, qualora avessero compiuto un reato comune, non un reato funzionale, sarebbe stato applicato l'articolo 422 ter che dice che c'è legittimo impedimento se davvero sono impediti dato l'esercizio delle proprie funzioni. Una norma che dice non sei obbligato a essere presente se effettivamente per ragioni di ufficio eccetera non puoi venire. La Corte di Cassazione ha detto una cosa giustissima: la richiesta referendaria vuole di nuovo che per i reati comuni tutti siano uguali. L'abrogazione in toto di questa legge sulla legittimo impedimento che è stata emendata. Potrebbe ritornare, non è che Berlusconi non potrebbe richiamare il legittimo impedimento, lo potrebbe richiamare, ma come lo può richiamare lei, come lo posso richiamare io? Quindi dal punto di vista di chi sostiene il referendum, quella diciamo bocciatura parziale da parte della Consulta che ha stabilito non era sufficiente. Non era sufficiente. Perfetto. La legge 51 del 2010 già faceva delle classificazioni di ipotesi, capito? Quindi un ritorno a quello che c'era prima della legge sul legittimo impedimento. Esatto, cioè lo spirito è molto semplice. Per i reati comuni, quelli che possiamo commettere noi come il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio o un Ministro, i ministri devono essere uguali a noi. Solo strumentalizzazioni politiche, obietta il sottosegretario. Segretario alla Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati, che non andrà a votare. Io non andrò a votare sono comunque favorevole al no, perché la posizione del PDL è una posizione che lascia libertà di coscienza. Io ritengo che questo quesito sia un quesito che nasce strumentalmente per tentare anche per questa via di contrapporsi al governo. Ritengo questa norma una norma importante perché stabilisce i casi in cui il Presidente del Consiglio o i ministri possano non partecipare alle udienze perché impediti dall'esercizio delle loro funzioni istituzionali. La sua dichiarazione del fatto che non andrà a votare è un sottointeso auspicio di che non si raggiunga il quorum. Secondo voi anche l'esito di questo referendum potrà essere considerato come una valutazione di tipo politico sull'esecutivo? Perché altrimenti, appunto, l'indicazione sarebbe stata: andiamo a votare e votiamo no. Non è una questione che potrà avere riflessi sul governo. Non possiamo tirare tutte le questioni sempre come fossero, non so, un tiro al piccione al governo. Lei diceva, chiaramente prenderemo atto di quello che sarà la volontà popolare che uscirà dal referendum. Se dovessero prevalere i sì, questo vorrebbe dire, secondo lei, anche, diciamo, che non ci saranno altre leggi che potranno normare la presenza del Presidente del Consiglio e dei ministri nei dibattimenti? Ma io ritengo di no, nel senso che il fatto di lasciare questa libertà di decisione significa anche la possibilità per il governo poi di tener conto appunto di quello che la gente ha deciso di fare. C'era chi invece aveva detto forse potrebbe essere necessario anche rispolverare il vecchio articolo 68 sull'immunità parlamentare. Se uno ritiene che questa legge non sia adeguata è un discorso, questo non è che debba precludere poi la possibilità, ma questo di pensare ad altre cose, quindi noi non è che possiamo precludere l'attività parlamentare. Legittimo impedimento è una norma che già esiste in diritto e che viene applicata a tutti i cittadini quando hanno un impedimento di carattere particolare. Mi pare che il Presidente del Consiglio partecipi il lunedì alle udienze quando questo è compatibile con la sua attività di governo. Volevo precisare che si sospende anche la prescrizione. All'immunità parlamentare noi come governo non ci abbiamo pensato. Se poi un parlamentare lo vorrà fare, questo fa parte di un'iniziativa che non ci appartiene, fa parte del normale confronto dibattito. Noi non l'abbiamo l'immunità parlamentare nella nostra agenda politica. Quindi, secondo lei, questi referendum non erano necessari? È un quesito che non ha nessuna, a mio parere, ragion d'essere, perché già superato dalla Corte Costituzionale. Ridurre ad un sì ed un no una situazione molto complessa fa parte di quella strumentalizzazione politica che pensa di prevalere attraverso la confusione delle idee. Non mi può piacere. Il referendum sul legittimo impedimento è l'ultima tappa di una battaglia tra politica e giustizia che ha radici lontane. Fu un errore cancellare nel 93 l'immunità, riflette ora Antonio Maccanico, che contesta poi la gestione 10 anni dopo di quel lodo a cui lui, da senatore della Margherita, aveva dato il nome in spirito bipartisan, salvo poi revocarlo. Io, per la verità, non sono entusiasta di questi referendum. Per la Corte Costituzionale la questione del legittimo impedimento l'aveva limitata abbastanza. Se non fosse stato, diciamo così, stravolto quel lodo, forse non si sarebbero arrivati ai... La mia proposta, quando ero presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato nel 93, proposi che invece che cancellare completamente l'articolo 68 della Costituzione si facesse un emendamento, non ho voluto cancellare l'articolo 68, quello è stato un grosso errore. Quindi lei, secondo lei, tutto iniziò in quel momento lì, ma perché in questo momento i referendum non la convincono? Io avevo fatto il lodo come elemento di accordo, ritiro dei provvedimenti ad personam, e in compenso c'era questa cosa, però l'hanno gestita molto male. Ora comunque il legittimo impedimento è all'esame del voto popolare. Scheda verde, sì o no, per abrogare la legge. Italia in controluce era la seconda edizione, siamo su Facebook, Twitter, siamo sul nostro blog radio24.it e su controluce@radio24.it, la mail dove potete rintracciarci. Torniamo domani 6:30 su Radio 24.